Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Buongiorno e benvenuti sul nuovo Ferry Boat. Sono Enzo Elgante, traghettatore. Vi porto in viaggio verso l'economia sociale tra gli appuntamenti e gli eventi della settimana prossima con questo nuovo format veloce di Ferry Boat, che punta ad informare sugli eventi e sugli avvenimenti. La primo della settimana è proprio uno dei più importanti, possiamo tranquillamente dirlo, perché si parla di responsabilità sociale d'impresa e di banche. Il forum sulla responsabilità sociale d'impresa organizzato dall'Associazione Bancaria Italiana, che è concentrato e incentrato su sostenibilità e core business aziendale. Ce ne parla Gianna Zappi. Buongiorno Gianna Zappi. Buongiorno. Che ci spiega come è strutturate le due giornate e quali sono i momenti clou, diciamo, di questo appuntamento. Dunque, il forum è alla sua sesta edizione, è un forum che ha l'ambizione di essere un punto di riferimento sui temi della sostenibilità, non solo per le banche, a cui ovviamente è rivolta essendo noi la casa delle banche, ma a tutte le imprese, alle organizzazioni, alla comunità delle persone che si occupano di responsabilità d'impresa. Il focus di quest'anno, come anticipava lei, è il tema di come realizzare effettivamente e concretamente l'integrazione della CSR dentro il business delle diverse organizzazioni. C'è una sessione plenaria introduttiva con la vista europea, dove avremo degli ospiti internazionali, aprirà il nostro presidente l'avvocato Mussari, e poi ci saranno tra gli altri il presidente di Istat e la Commissione europea a rappresentare che cosa si sta facendo sui temi della sostenibilità a livello internazionale e nazionale. Ci saranno poi queste sessioni interattive di lavoro su vari temi, dal comunicare la sostenibilità ai modelli di gestione della CSR, l'azionariato attivo, il green banking, e due tavole rotonde, una dedicata all'ISO 26000, che è la nuova norma internazionale dedicata alla responsabilità sociale d'impresa appena votata e appena pubblicata in italiano, e una seconda a cura del CSR Manager Network su sostenibilità e gestione delle persone. Il Forum 2011 è infatti realizzato in partnership sia con il Forum per la finanza sostenibile che con il CSR Manager Network. Bene, grazie Gianna Zappi, a risentirci. Arrivederci a voi. Anatomia della fame alla Festa dei diritti umani. Venerdì alle 21 vi segnalo che a Pisogno, in provincia di Brescia, nell'ambito della Festa dei diritti umani, si presenta il libro Anatomia della fame, che è edizione Altra Economia. L'autore Vittorio Rinaldi, che è antropologo all'Università di Verona, a Milano, Bicocca e anche di Firenze, risponderà alle domande sul diritto al cibo. È ancora possibile in questi giorni presentare domanda di finanziamento allo Sportello della Solidarietà. Lo Sportello della Solidarietà è un'iniziativa della Fondazione Europa. Riguarda le no profit di Roma, Frosinone e Latina, e ci sono anche delle indicazioni precise su quali sono i temi, diciamo gli ambiti rispetto ai quali sviluppare questi progetti. Sono le malattie rare, la problematica dell'avvio al lavoro dei giovani, i progetti per la riscoperta e la valorizzazione delle arti e dei mestieri. Per avere informazioni più precise scrivete a sportellosolidarieta@fondazioneroma-terzosettore.it. Coppa Adriatica ha deciso in questi giorni di prorogare fino al 24 aprile lo sconto del 10% per i lavoratori in crisi. Nei 160 negozi Coop in Emilia Romagna, Veneto, Marche e Abruzzo sarà possibile, fino a un massimo di 60 euro di spesa, di usufruire di questo sconto, che è riservato alle persone licenziate in cassa integrazione, con contratto di solidarietà, con contratto di precari non rinnovati o con lavoratori autonomi che hanno cessato la propria attività. Da aprile 2009 ad oggi 22.000 persone hanno usufruito di questo sconto e il risparmio complessivo è di più di 2 milioni di euro. Scade domani, 17 gennaio, il termine per la partecipazione al progetto Europe della Coop Sociale Cara Bobowski, che è un progetto europeo. Europe offre l'opportunità a 40 ragazzi di vivere e lavorare per 14 settimane in realtà del terzo settore, quindi cooperative, associazioni, enti che operano nel sociale, nella cooperazione, nell'ambiente e nella sanità, però nei paesi europei, in Francia, in Spagna, in Inghilterra, in Germania, in Irlanda e a Malta. Possono partecipare al bando neolaureati, diplomati, anche lavoratori o per esempio disoccupati, visto che c'è una grande quantità purtroppo di disoccupati, d'età compresa però fra i 19 e i 32 anni. Devono essere residenti in Emilia Romagna. Per informazioni più precise il sito che vi segnalo è www.ecofo.unibo.it. È tutto per questa riedizione. Vi ricordo che sul sito di radio24.it potete contattarci attraverso l'indirizzo ferribot@radio24.it. Fatelo, comunicateci la vostra attività, saremo ben lieti di raccontarla. Grazie ad Anita Panizza per l'assistenza in redazione e a Peter Bescapè per l'assistenza in regia.